Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze e Radio Collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il nostro sito www.giordanobrunomi.wordpress.com e il calendario anticlericale 2021 dedicato alle invettive contro i papi fatte da Dante Alighieri, info@siciliaribertaria.it. È uscito il nuovo numero del Libero Pensiero, il trimestrale dell'Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno, e il 17 febbraio si è tenuta la tradizionale celebrazione lì in piazza Campo dei Fiori. E leggiamo a proposito della pena di morte a pagina 18 della loro rivistina. Papa Francesco scrive: oggi affermiamo con chiarezza che la pena di morte è inammissibile, però, fa notare l'autore dell'articolo, ci sono diversi testi di Sant'Agostino, San Tommaso e di Concili che autorizzano la pena di morte. Del resto, nello Stato della Chiesa, Mastro Titta giustiziò oltre 500 persone e si può trovare il PDF su internet, basta digitare Mastro Titta e si trovano tutti questi misfatti clericali. Abbiamo poi, sempre da questa rivistina, un articolo contro Pio XII. Pio XII tacque quando ci fu la grande retata degli ebrei romani del 16 ottobre 1943. A poca distanza c'è San Pietro, perché il ghetto è lì vicino a San Pietro, ma nessuna voce di indignazione si leva dai palazzi vaticani. Era forse il segnale che i criminali attendevano per poter precedere senza intoppi. Temevano la ribellione dei romani. Quindi gli ebrei non furono subito portati alla stazione, ma al collegio militare, un grande palazzone che c'è ancora. Poi li spostarono alla stazione e li inviarono ad Auschwitz. Più di 1000 deportati, solo 16 sono tornati. Dei 207 bambini deportati, nessuno è tornato indietro. Altro che amore per i bambini dei papi. Notizie anticlericali. C'è una mostra, Casanova e altri libertini atei anticlericali, Venezia, Illuministi ed Eros. La mostra però non è a Venezia, ma a Bologna. Dai poeti sconci all'amante di Byron, incurante degli stravolgimenti politici in Europa, la Serenissima continuò a far festa tra nobildonne lascive e ménage à trois. E ricordiamo appunto, la mostra però è a Bologna. In televisione, sul canale Cielo, è stato mandato il film Maddalena, in cui il prete e la sua amante intrecciano una squalida storia clandestina. Alla fine il prete si suicida affogandosi in mare. È stato mandato sabato 13 febbraio alle 21:15 sul canale Cielo. E battaglia contro i crocifissi all'Università di Torino, sia alla laicità sia ad una scuola laica. Praticamente il casino è venuto fuori perché l'università giustamente pretende che durante gli esami che si svolgono appunto via internet non si presentino simboli religiosi, sportivi e di ogni genere che potrebbero influenzare il giudizio dei prof, eccetera. Abbiamo poi sui misfatti clericali. Ricordiamo che negli anni 50 ci fu una terribile repressione censoria da parte dei governi democristiani, forse in certi aspetti peggio di quella dei fascisti. Infatti il primo nudo della storia del cinema italiano è stato fatto sotto il fascio. Totò, Klimt e la censura nell'Italia perbenista, da Il Giorno del 13 febbraio 2021. Quel che certi preti facevano nelle sacrestie e nei collegi invece era vietato vederlo nei cinema, in particolare i cinema parrocchiali erano severissimi e censuravano a tutto spiano e tuttora censurano certi spettacoli, perché i cinema parrocchiali controllavano il 30% delle sale. Quindi Totò, Sofia Loren, Lea Massali, Clint Eastwood, eccetera, furono tutti censurati Vittorio De Sica, censurati dalla censura democristiana che allora imparava. Dalla rivista Jesus dei periodici San Paolo, abusi sotto il velo. Non sono solo i bambini le vittime di violenze nella Chiesa, anche le suore subiscono abusi fisici, sessuali e spirituali. I predatori sono preti, laici, ma anche con sorelle anziane che detengono il potere e le vittime faticano a denunciare perché può succedere che tutto venga insabbiato. Qui a Busto Arsizio, in Lombardia, nel Varesotto, è successo appunto che una ragazza è stata indotta al suicidio dalla suora malefica che ne abusava di lei da quando era piccola. Allora, dall'America, 27 gennaio 2021, arcidiocesi di New Orleans rimuove il prete accusato di abusi sessuali su minori durante i ritiri spirituali. Questo povero bambino di 10 anni aveva dovuto sopportare queste ascensioni maniacali da parte del parroco. Poi abbiamo, cogliamo l'occasione per ricordare il caso Provolo di Verona, no? Questi poveri sordomuti, che sia in Italia che in Argentina, dove c'è anche lì un istituto Provolo, furono tutti seviziati dai frati e ne fecero di tutti i colori. Abbiamo poi all'isola di Gozo, dello stato di Malta, due preti arrestati per abusi su un chirichetto, e 26 gennaio 2021. Abbiamo poi altri misfatti, ex frate a processo per abusi sessuali in Mississippi, 7 febbraio 2021, aveva molestato studenti che incautamente erano stati affidati a lui dai genitori cattolici. Abbiamo poi la sorella Abaya, cioè un prete indiano e una suora, condannati all'ergastolo perché avrebbero ucciso questa suora per beghe clericali. E disgrazie clericali, fulmine in chiesa, salvi per miracolo. Un articolo storico apparso sul Resto del Carlino di Ascoli ci ricorda che il 6 settembre 1914 un tremendo fulmine anticlericale fece crollare la torre campanaria sbriciolandola e entrò in chiesa spaventando a morte tutti i poveri fedeli che incautamente si erano radunati sperando di salvarsi dalla furia delle forze naturali. Allora, un suicidio, il primo suicidio dell'anno clericale in Italia. Roma, lascia un biglietto, si lancia nel vuoto, giallo nel convento. 14 febbraio 2021, nella casa generalizia delle suore ospedaliere della Santa Misericordia, sta ragazza, sta suora, quarantenne, ha lasciato un biglietto e si è lanciata dalla finestra. Questo è l'effetto della repressione sessuale, del clima maniacale che si respira nei monasteri. Poi concludiamo la puntata col piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale scritto dal sottoscritto. Disonestà palese è quella dei redattori dei Vangeli, si risconde abitualmente quando citano a sproposito alcune profezie bibliche come avverate. Insomma, questo studioso veronese Mario Trevisan ha fatto un bello studio sui Vangeli e sulle loro citazioni bibliche, che sono tutte a sproposito, tutte sbagliate. Dittatura spirituale, dal libro I grandi maestri del pensiero laico. Dittatura spirituale. Il cattolicesimo e altre religioni la imposero con sanguinose violenze a stati piegati ai suoi comandi. Divino zuzzerellone, da Renato Testa, un altro anticlericale veronese. Dio si divertirebbe a giocare a nascondino con noi ed avrebbe un gusto perfido di fregarci. Doppio pesismo, dall'ateo, la rivista dell'UAR del 2014, e insieme all'ipocrisia un valore morale tradizionale della Chiesa nostrana. Duplice barbarie, dal libro di Oreste Grossi, I Boia di Roma, Newton Compton editore. Allora, duplice barbarie, fu fatta quella del governo papale a Roma nel febbraio 1664. Fu giustiziato un criminale malato che non si reggeva in piedi in tempo di carnevale a mo' di spettacolo per la plebe. Benissimo, saluti a tutti alla prossima puntata del notiziario ateo anticlericale. Per contatti 331-730-2874.